centrale, ma qua giù di giù, ui, questa la spezza in due, non si muoveva, non si muoveva, solo leggermente gli ultimi due elementi mi si muovono, ma è sempre Carlo e basta. Il resto è stabile, ma stabile più della mantova, la mantova oscilla, questa non si muove un millimetro. No, io quella di Carlo l'ho vista muoversi, l'ho vista piegarsi, quando c'era quel ventaccio a raffiche, ma si piegano tutte quando c'è il ventaccio a raffiche, anche la mia un po' si piegava, ma non più di tanto. Già va bene, sì che non si troncano va bene, claro. Vabbè, dai, io vi saluto tutti cordialmente che sono alla porta di Giulcane, ci sentiamo, buon continuo questo a tutti, ciao ciao. Ciao Gianni, alle prossime. Ciao Gianni, alle prossime, ciao. Vai, ciao Gianni, alle prossime. La confermo, l'antenna va benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, stavo scansionando i canali della 27, sul 34 sentivo, però la voce non era chiara. Ho detto qua c'è qualcuno in SSB. Invece era in LSB, non USB, ed era, diciamo, un tipo che stava parlando dal Portogallo. Ho provato a fare chiamata, ma ha risposto subito, mi ha detto che arrivavo Santiago 8 Radio 5, la bomba. Ma io quell'antenella uso anche in 10 metri, io quando vado in 10 metri uso quella senza neanche accordatore, c'è uno e uno di stazionaria, una larghezza di banda micidiale. Proprio l'altro giorno ho fatto un bel po' di collegamenti, Brasile, c'era il Sud America, Stati Uniti, c'era le isole, le Baleari, tutte quelle, le isole lì, insomma, va bene, è un'antenna ottima, ma mi sta dando ottime soddisfazioni. Solo che io l'altro giorno l'ho smontata perché sto sempre facendo lavori, siccome questa non è definitiva, al posto di questa ci va la 5 bande, la piccata doppio, e quindi l'ho smontata, e sto usando solo la mantova, capito? In attesa di fare un sistema diverso, sempre in quell'angolo che hai visto tu. Vabbè. Comunque, l'importante è che funziona l'antenna, non c'è problema. Vai, tanta lì. Poi Cappala, io vi saluto tutti e me ne passo in QRT, e devo fare un qualcosa qua, là, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Natalino. Ciao, ciao Natalino, che a te. Buona serata, buon tutto, e anche io fra un po' vado a cenare, perché poi c'è la partita e io voglio sedere un attimino. La idem, io sto preparando qua pasta al pesto stanotte, i ragazzi dice facciamo qualche pasta speciale, ho detto c'è pesto in frigo e quindi pasta al pesto. E insomma, è copiato un po', no, io c'avevo un broccoletto in frigo e sto facendo delle vecchiette con i broccoli, sono molto buoni, fresca, roba fresca, non fa male, e va bene così. Secondo, non so, quello se ne occupa mia moglie, nei primi li faccio sempre io. Io lo stesso, no, noi diciamo a cena di notte, se hanno ancora fame i ragazzi, magari loro mangiano qualcos'altro, o avanzi di pranzo, oppure già c'è in frigo sempre qualcosa, si fanno un'insalata in più, eccetera. Noi genitori mangiamo una cosa, un po' di frutta e basta, per la notte è meglio stare un po' leggeri. Sì, ma infatti no, a me piace molto cucinare, che ogni tanto faccio qualcosa, ma sono mani, mi sa che faccio un po' di polpuzza con degli gnocchetti, mi piace un bel me. E va bene, quindi devi andare al lavoro stanotte, quando? Domani mattina c'ho il turno, quello dalle 5 alle 13, però mi guardo la partita e poi me ne va la nanna. Sì, ma la partita non finisce tardi, già finisce presto, alle 11 che la finisce, alle 9 inizia oggi, 9, 10 e meglio, alle 11 meno 4, 11 meno 10 finita. Speriamo che non facciano i supplementari, che la chiuda subito la Juventus, perché la Juve la deve vincere, quindi se fa 1 e 2, poi può anche un po' fare ritirata, però prima la deve chiudere con due gol di vantaggio. Lì se la deve giocare, sarebbe giocare a Torino, capito? Non deve prendere gol, soprattutto perché il pareggio non basta, il pareggio vanno supplementari, quindi o la chiude 1-0 o 2-0 o 2-1, allora va bene, perché però vediamo, è tosta, il Villarreal è una bellissima squadra. E maledetti, già hanno un bel gioco, palleggiano bene. Atleticamente sono ben allenati, corrono dall'inizio alla fine, speriamo la Juventus che azzecchi la giornata, soprattutto che siano i giocatori, insomma, quelli fondamentali che siano in vena, tipo Vlahovic, e la difesa che funzioni bene, e speriamo anche in Rabiot che ne azzecchi qualcuna questa volta. Non vedo male, io li proprio non vedo male, non so, hai visto cosa gli ha fatto l'Atletico Madrid al Manchester, non vedo male che tagliano. Eppure erano in svantaggio 1-0 e poi 4-4-8 hanno attaccato, e perché in Champions è così, se attacchi segni e vinci, se invece fai un gol e poi ti ritiri in buon ordine, alla fine la subisci e la perdi pure. Sì, lo so, però sto vedendo una grande Juve rimonta, perché ti ricordo che è a 3 punti dall'Inter, è a 4 mi pare, o 5 punti dal Napoli, quindi cioè era fuori gioco, però è rientrata in gioco, adesso devono stare attenti a non perdere, perché la Juve ha fatto 15 risultati, 16 con l'ultimo che ha fatto, 16 risultati consecutivi senza perdere manco una partita, quindi se continua a vincere e gli altri o pareggiano o perdono come stanno facendo, perché l'Inter ha avuto un calo micidiale, io pensavo che vincesse il campionato di brutto proprio a lunga distanza, invece è già fuori dalla Champions, è stata eliminata dalla Champions, il Milan e il Napoli che stanno viaggiando a onde corte, lei che insomma va a pareggiare con un Torino, sta perdendo troppi punti, quindi secondo me è difficile che vinca il campionato, capito? Quindi non so, non è il pallone, come dice qualcuno, è tondo, bisogna stare molto attenti, ma spero che faccia qualcosa in più, che non si dromia. Penso che le possibilità maggiori le abbia il Milan, la vedo un po' più fresca la squadra e atletica, ogni tanto hanno qualche piccola flessione ma recuperano subito. La Juventus altri anni partiva forte e poi aveva i cali, come sta succedendo all'Inter, come sta succedendo all'Atalanta, no, partivano bene e poi avevano i cali. Speriamo la Juventus, che quest'anno invece è partita male, anzi malissimo, e adesso sta recuperando, che duri sino a fine campionato, mi sa che mancano 9 partite, quindi 9 per 3, 27, punti ce ne sono ancora comunque. Ah, io continuo a vincere, no? Come sta facendo, perché 15 partite consecutive non ha perso un colpo, se continua così io penso che si prenda o il secondo o il terzo posto, capito? Forse a pari che a parità, non so, l'Inter deve vincere, perché se l'Inter perde e continua a non fare il punteggio, la Juve la passa perché c'ha 2 punti di distacco, capito? Il Napoli poi ne abbia 4, qui devono giocare ad alta quota sia Napoli che Inter, e quindi potrebbe fare un bel secondo posto, ma anche un terzo posto è sempre un bellissimo campionato, capito? Però il Milan sicuramente lo vince il campionato, lo vince perché è una squadra fortissima. Ai, ai, eia, adesso più basso però è. Buonasera, dai, io adesso vado a mangiare, sono appena rientrato a casa. Sì, è più basso, 9.20 da giudizio. Ma si usci basso. Là sono 9.30 però. Perché sei più vicino, zio Claudio, bello bene. Più ti allontana e più abbassa il segnale, però ti posso garantire, come ti ha già detto Carlo, che sei tra i segnali più forti che arrivano qua, tenendo conto dove sei tu e dove sono io, che sono a 5 km da Sassari, quindi non ti vedo, nulla, capito? Quindi vai più che bene, vai a papà, vai, vieni, Carlo. Ciao Antonio. sono sempre forte e zitto, insomma, il segnale di radio già va bene, e anche io sono addirittura d'arrivo perché sta bollendo l'acqua, quindi mi sa che vi saluto, ci sentiamo eventualmente o più tardi o alle prossime, perché poi mi guardo la partita. Piacere avervi sentito, grazie del QSO, saluto Cristian se ancora in ascolto, Natalino, Gianni, Claudio, salutoni, e salutoni anche Antonio. Allora io vi lascio e ci sentiamo dopo, che io vado a mangiare, se no non mangio più io, no. Ciao ciao, ci sentiamo. Ciao Carleanto, aspetta un secondo, poi vai. Te l'ha più fatto quel difetto? Negativo. Ok, vabbè. Tieni aggiornato che abbiamo sempre quella l'acqua, eh. Capito che cosa si è visto. Ciao ancora a buio. Dai, ciao, vai a mangiare, ci sentiamo dopo. Ma sicuramente non è fatto dall'avvento, la pagliso che ha fatto così. Perché la buona gente sguaria e non gli darendo e si è rimesso a posto. Ok dai, io vado a mangiare. Ciao ciao ciao ciao Carle, ciao Natalia, ciao a tutti, un abbraccio, vado anche a cenare, ciao ciao. Ah, buonasera a tutti. No, che fino a poco fa c'era un bel di gente, erano in tanti, adesso non c'è nessuno, ma fino a poco fa erano in tanti che stavano parlando, ve lo dico io. Una guerrena che faccio? Un bel altro? Hola. Eh sì, alto. Ma non sai che pure io stavo guardando a 5. Provi a regolare questo smith, arrivi troppo forte, anzi, si è cazzo sul 3. Sul DB arrivo. Oh, sul 3, sì. Sul 3, del più 30. Via, aspetta un attimo, ma tu, 2 secondi che mi ci servo. Vabbè, io sono a casa adesso, eh. Io non so che sia casa tua, ma arrivi... Sì, sul 3 proprio, da qua, tra il DB e il 3. No, ammara. Oh, siamo venuti ma c'è caldo, eh. Si vede lo scirocco, beh. Lo sciroppo da nel bosco oggi. Mi sa che la roba la regolazione, anzi, detto un attimino, mi fammi terminare, mi sa che avevo fatto la giro, ma la sto sistemando. Ma mamma non me lo fa più. C'è un nuovo fluido. Non servarmela. Facciamo la regolazione un attimino. Troppo alto, ok. No, poi c'ho. Sta nel QRM, segnale come alto. Però non mi ricordo che cavolo il trimerino è. Non mi ricordo. Cazzo, vado, faccio una visita, devo le palle, però mi gioco un buon. Cazzo, no, è ovvio, anche tu. Andiamo male durante la notte. Allora, dammi, allora. Lascio un po' acceso qua. Faccio così. Adesso attacco il baracchino, facciamo una regolazione. Se no, così non mi piazzi. Cioè dare segnali fasulli. Ah, se te ti controlla quelli, dai, questo metto gli occhiali. Aspetta, provo passaggio. Vai. 3 prova, 3 prova. Vai a vedere. A tuo alto, sì, un bel. Sì, un bel alto, troppo alto. Ma come mai? Perché lo stavo regolando il trimerino in trasmissione per lo smitter e non sale più di quel tanto, boh, so che l'ha preso. Adesso io lo stacco un attimino, aspetta. Provo a vedere. Ciuccio. Buonasera, ciuccio. Buonasera. Come mi ascolti? Normale. Troppo normale. Chiaro, sì, la modulazione è chiara. No, insomma, così è. Sì, ma la chiedo monocasso è questo, non sai. Questo è il Bigram, questo è il Bigram. Il Polman, questo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modulazione chiara, perfetta. E il microfonino con cosa? Con normale, suo. Così è. Andante, dai. Sì, vabbè, l'importante è che non sia granchiante o tipo telefono e cose del genere. L'importante è quello. Abbiamo cambiato la cassa, l'abbiamo messa una da 7 ohm. Quella da 150 ne avevo 8 ohm. meglio. 1, 2, 3, 4. Così Antonio, non è niente di speciale con l'apparecchio. Non capisco perché viaggino così. Scusa, voi ci dite, così viaggiano qui, non posso mai viaggiare in un altro modo, a meno che non metto un aereo. Capito? Andrà bene, andrà bene. Adesso mi ha portato, cioè da adesso, già da un po', avevo portato in Midland. E dove? Da Fusaro, non l'hai mai visto in vetrina? Sono, ci ho fatto caso con la vetrina, nel vetrina. In vetrina. Midland c'ha, non ha portato più Palmato, il Palmato c'aveva prima. Sì, l'aveva comprato da fare io, l'avevo piano io, invece l'avevo preso lui. Perché ti ho detto, aspetta, ho detto una settimana, ho detto che ci potessero dei contatti, invece poi ho dovuto ritardare. Quando sono stato dagli soldi, se l'avevo già venduto, ho detto vabbè, pazienza. Ne volevo 100 euro. Io questo ho pagato 98. Già lo so. Sì, non voglio accedere con questa spedizione, sei intento. A fine lo compravi qua. Cioè, non fai a te zio su ciò io, che è migliore. Sì, già lo so. No, ma se metto il microfono attaccato esce bene questo, non è questo. Questo è il suo microfono originale, vero e proprio. Usavo il DM1000, quello mi aveva dato tu prima, solo che poi anche l'avevo prestato, l'ha crepato, praticamente, quindi le ho rimesso il suo microfono originale e se l'ha bigliettato. Gli altri due microfoni invece, tanto non ce ne sono altri microfoni, ne ho nemmeno 95 e non ce l'ha più, e quindi me ne devo accontentare di quello che c'è, capito? Ormai già sono sempre di più. Però voglio lanciare tanto becco, voglio lanciare. E lasciare questa versa al 2009. Ma è capa, questo cazzo, ma non è altri apparecchi, è bocca e bassa questa cosa. Tanto quando ti arrivo io, guarda adesso, guarda qua con te, quando ti arrivo. 9.40 sei quasi. Ok, no. Tu sei giusto adesso, però questa arriva più 30, capito? Vabbè, io già sono 9.30, Sì, sì, sì. Oh, quando ti arrivo a te? Io voglio, con questo c'è appunto. Devo smettere di gettare. Se 9.20, 9.25. Ma ti va, stai uscendo tu? Sto uscendo con quasi 3 watt, esattamente. E con microfono normale, capito? Questo Polman. Vabbè, il microfono lo so cambiare la capsula, se lo facciamo a schifo, che è questa almeno è più chiara. Ma non è che sia chissà cosa. Vabbè, non so manco, l'LCP non si trova in questo apparecchio, quindi se non l'avrei mettato l'LCP avrebbe mettato anche la radio, ma è bello che non si trova. Ho già cercato, che cosa del genere non risulta, capito? È un casino, ho lasciato così come della biglia in culo. L'unica cosa che è, al limite di mettere un microfono fissicato, appena arrivano da Fusaro, li metto verbe 95 della biglia in culo. Aspettata con come si il 2009. Ah, Popo, qual è lo smitter regolare in trasmissione del trimerino, qual è? Cosa? C'è quella... C'è appena l'apparecchio dove c'è lo stampato, c'è quella cosa verticale che è lanciata nello stampato con tre agganci nello stampato. A fianco a quello lì, proprio di fronte, c'è il trimerino dello Smith per la trasmissione. Capito? No, non ho capito. Questo è il Typhoon. Capitano, metto lì qua subito. Questo è il Typhoon. Ma la LC è no? No, aspetta un attimo, già te lo dico io. MPVR non può essere. Cos'è RFS, quello lì è. Ah. Allora, adesso sì. Spegni il baracchino che se non ti gonfi. Allora, SRF, quello lì devi toccare. Poi invece in quello di ricezione c'è scritto AMFM, c'è scritto sotto. SRF AMFM. E sto maletta, probabilmente mi sale a metà. Deve essere giallo, tutto di giallo. Anche a me mi sale a metà, lo smette, ma io ho problemi di... E c'ho una resistenza che devo cambiare. Mi sale a metà anche per quello a me. Che macchina, a me sa come è una resistenza adesso, buh. Io mi sono trovato, non me l'ero neanche accorto, un condensatore che era ovvio e una resistenza che era bruciata vicino a come si chiama, all'attacco delle cuffie, dove c'è il modulatore. Me ne sono accorto dopo 3-4, dopo un mesetto nemmeno, perché prima stava funzionando bene, poi ho cominciato questa cosa, saliva, scendeva, lo smith saliva, scendeva da solo. Alla fine mi ha girato le balle, l'ho aperto e mi sono accorto di questa resistenza di questo condensatore. Adesso il condensatore l'ho trovato da 330 microfarad e 16 volts. Adesso devo trovare questa resistenza che domani la cerco, vediamo un po'. Cos'è Pompo, quella che rimane vicino ai finali, vicino al dissipatore, quella schedina che è inserita orizzontale, cos'è? Quella che ci ha cacciato ai finali, che è sopra i finali per esattezza, che va da una parte all'altra. No, una schedina che va inserita in mezzo a questi cosi, che ne esce, mi capito? Quella schedina lì ti manda l'alimentazione ai finali, ti manda. Non ho capito. E tu non sale, boh. Ecco, proprio attaccato, visto hai dove c'è quella schedina, c'è un trimmer, c'è, alla fine di quella schedina. Quello è il trimmer dello Smith, capito? In trasmissione. Invece quello per la ricezione ce l'hai attaccato al trimmer della SSB. Secondo me è difettoso il trimmerino, perché non sale più di quel tanto, a metà mi sale, prima saliva bene, giusto? Ma papà, ho sentito qualcuno ha sentito. Ehi, adesso lo facciamo entrare. Dovrebbe essere scritto in quel trimmerino 103 sopra. Avanti, voleva entrare poco fa. Marito. Cosa Pompo, scusa, mi sei sotto il baracchio, cosa hai detto? Ecco, in quel trimmerino, se non mi ricordo mai, ci avrebbe essere scritto 103. Aspetta, guarda, ma è stato un eco che ho subito, che ce l'ho aperto. No, 103 è quello AM per riguardare lo smitter, quello per Smith c'è, come tu ce l'ha portata, è 104. Sì, esatto, 104, l'ho aperto adesso, no, 104. Allora, per la portata 104 del genere, verso quella schedina che è messa in quel vitrine montale. Ti risulta proprio la resistenza che ha. E buttata verso quella resistenza lì, che è rosso e nero. Allora, vabbè, ci vedo un bel po' poco. Qui invece l'altra, quella della ricezione, è 103. Infatti l'ho cambiata io, ma mancava un tubo a me. Facciamo un falso contatto, un cervello. Quando toccavo la scheda visto la scheda del Roswell, quella che c'è attaccata allo chassis, dove ci sono le bobine vicino al finale, che c'è quella cosa sfugnosa, quella l'ho dovuta cambiare quella scheda io. Perché come la toccavo saliva e scendeva lo Smith, saliva e scendeva lo Smith, gli ho detto ma fanculo e tocca. E poi, allora, più avanti mi sono accorto, ho dovuto eliminare, cambiare quella e poi mi sono accorto dall'altra parte che c'era questo condensatore e questa resistenza bruciata. E adesso domani vediamo un po' di vedere che resistenza è, così me la cambio. E me la apposto. Sì, qua c'è scritto qua, c'è cioè, uno c'è scritto Biasi, cosa è questo Biasi? Bias. Bias, non toccarlo, non toccarlo per niente, non c'è un cazzo. Quelle sono l'alimentazione delle, in pratica dei finali, non toccarla per niente, ce ne sono tre di quelli, attaccata vicino al finale. No, non sto toccando, no, sto solo chiedendo. Non sto toccando niente, Antone. Invece la MC cos'è? La MC e l'EC è la potenza dell'audio, devi girarli tutti e due, hai capito? Che vuol dire la potenza dell'audio? Potenza dell'audio in trasmissione, allora se, quando giri la MC e l'EC la modulazione si dovrebbe o abbassare o aumentare. Ho capito. Allora aspetta, questa qua, allora, questo qua perché l'abbiamo cambiato. Questo qua dovrebbe essere. Non già sto usando. Guarda, si abbassa, guarda, si sta abbassando. Mi senti? Esatto, si è abbassata. Quello è l'AMC, giusto? Sì, AMC, sì. Rimettilo la posizione come la prima manetta. E poi l'AMC lo giri. Dovrebbe essere dalla stessa parte. Se sei fortunato. Solo è dall'altra. Che aumenta l'avario. Aspetta, guarda. Allora. LC. Guarda se si è abbassata, mi senti? No, ci sento bene lo stesso. Però c'era un microfono male a piazzare, a questo amplificato, così si nota di più. Sì, ce l'ho conservata adesso, qua c'è questo cazzo di baracchino aperto. No, non riesco a. E vabbè, io la sciugo e se la piglio in culo. Ascolta, gira tutti e due nello stesso verso dove è bene, gira quello dell'LC dove è allo stesso verso dell'LC, tale e uguale, perché ci l'ho messi così qua? Ehi, avanti Antonio. Fatto, ma sta regolando, ma parecchio. No, a parlare tu. 1 e 3, prova. Sei giusto adesso, eh. Perché di solito quanto è il segnale mio? Sul più arriva tu, sei oltre. Già va bene. Luca, guarda che l'LC lo puoi anche staccare, il trimmer. Lo sai, sì. Io l'ho staccato il trimmer perché pompa molto di più in trasmissione. Già non si brucia il modulatore. No, io già non gli stacca nulla, no? Se le mani usci. Già va bene, pompa lo stesso, non è che non pompa, se va benissimo. No, l'usato me lo ripiazzo. No, questo non mi ha fastidio, questo Smith, qua. Quante volte non sale, quante volte va, quante volte non va. Adesso provo a cambiare, davvero, quel trimerino, cioè, c'è il 203. L'ho staccato io, da quello mio, sì, ce ne ho, 103. Io ce l'ho messo nuovo, pensavo che, vabbè, ce ne ho altri due dovrei averne. Dico lì, sono bianchi di colore. Esatto. E io ce l'ho bianco, vabbè, bianco. Beh, risulta, ma comunque. Ci sono anche delle modifiche, se vai su internet per il Saturn Echo. Anzi, non per il Saturn Echo, per il 3009 ci sono delle modifiche. Stavo guardando stasera, solo che poi mi ha chiamato Simona, eccetera, l'ha avuto, me l'ha detto. C'erano delle modifiche per aumentare i canali e per il roba di trasmissione, mi sembra, o modulato, adesso non mi ricordo. Devo solo controllare nel telefonino. Io non so se non mi interessa. Lo smette che non sale, sale a metà. Ma se va bene, vabbè, lascio così se la biglia il culo. Sì, vabbè, comunque il trimmer, non ti preoccupare. Una volta che cambi il trimmer, è là che sale molto più qui. È che non si rivuole la palla, che se no l'avrei spedito. Certo, è cosa che mi gusta. Va, fa un fermo lo smitter. Cioè, è regolarlo mio, la porta su. Ti cambi il coso, il trimmer, basta. Glielo metti nuovo, non ci vuole molto, ce l'hai un disadattore, ecco. Stacchi uno, mi cambi l'altro, lo giri, si apposta. Come dico, se ti stacca il piede, ce ne va con lo scala. No. Era proprio difettoso. No, quello di staccare il piede e andare, cioè, staccare il piede e poi a volte saliva, a volte si leva, era successo qualcosa, ma Daniele, ho dovuto strizzare il CRC nel mio Fegain e nel Mikey Gay, che non ha sentito. Che cose ne ha tanto, poi quando non li usi si rovina ancora di più. Sì. Vabbè, ma quando vuoi salire, vieni che pigli con la scherina. Dove la freccia l'acqua? La freccia l'ho usata per il completo di Area 1. Come sono andato? Allora, ciao Marco, allora sabato devo andare a Itti di Bombò e devo fare una visita, capito? Magari di passaggio passo da te, ti chiamo prima, tanto devo andare alle 11:15, alle 11:15, fammi pensare, 11:15, fai che a mezzogiorno sono a Sassari, dai. La mattina te la metto da parte e ti stacchi meno la mia volta qua e ti stacchi il pezzo e la scheda di un cosa questa un telefonino stai qui con questo ce l'ho, ce l'ho. Ma 102, 103, 104, ci sono. Ma no, messo la 103. Comunque bombo, perché non gliela metti? Guarda, io ho la ventola accesa, senti, Si sente? A parte il televisore, vabbè, di mamma che è fuori. Grazie, sei proprio bene. Sì, che ce l'ho 103. Adesso l'ho visto. No, ma non a me, bombo, la ventola la senti? Sì. Ma tu si sente un bel, perché non la metti una resistenza? Io l'ho messa a 100 ohm e l'ha rallentata un bel, e se no ho cazzo un po' di casino, è insopportabile. Ah, io l'ho attacco direttamente, però ci ho messo un eco con la con l'alimentatore, mi hanno staccato la ventola e l'ho fredda tranquilla, un attimo scada nulla. Guarda, per caso non è che hai il LED di TV, no, da 32 pollici, ne hai? Sì, ma ha un difetto, questo TV. Allora, in pratica è come se ci avessi il segnale dell'amplificazione, dell'amplificatore basso, capito? A volte... lo sfarfallievo. Quello lì è 32 pollici questo, capito? Me l'ha fatto qua una volta in camera, poi alla fine mi ha rotto le balle per non fare sempre andare giù a toccare l'amplificatore, ci ho messo l'altro che è più sensibile, l'altro smart TV, sono tutti e due smart TV, uno è nero e questo è bianco. Sì, ma io ti ho chiesto se hai LED, non TV, LED o qualche pannello LCD, perché ne ho uno da riparare, un Samsung di ultima generazione. Peccato, c'è una striscetta, ha preso un colpo, non ce lo devo portare giù, lo devo provare a San Marino, lo do a lì, quella avrà tre anni circa, 4 anni o di più, comunque è di ultima generazione. No, non ne ho di quelli lì, c'avevo un televisore e l'avevo dato, capito? C'erano le di nuovi nuovi, c'era. Avevo cambiato la scheda, l'avevo cambiato, poi alla fine questo si era rotto il male. Allora volevo sapere, tieni il televisore, l'avevo preso e l'avevo regalato a Giuseppe De Vincenzo, l'avevo regalato quel televisore. Vai, e fatelo riparare, e perché è solo questione di una fesseria. Così me l'avevo tolto le mie piedi, però non ho più visto nessun televisore campato, di solito portavano televisori qui a Nasta, adesso io ho visto un radione di quelli non molto grandi, l'ho raccolto la terra, l'ho pulito bene, ci ho tirato il CD, cazzo funziona, ma gli ho detto cazzo, ma almeno uno che non funziona, ecco, di questi radioni col CD, studiate che ho io, sono nuovi, dopo un certo periodo vanno in tutti il lettore CD, questo invece funziona bene. Vabbè, sti capitano comunque, di quelli leggeri, mi sono dei pannelli LCD da 32 e dei LED, io c'ho, ne ho allora, 1, 2, 3 TV da riparare. Oh. Figurati, vabbè, se mi capita che di solito qui ci buttano televisore a nastro in questa zona qua, ci sono tre cassonetti, invece la parte mia li hanno tutti tolti. Se mi capita ti faccio sapere qualcosa, lo accendo, se la TV si vede, cioè i LED si accendono, non fai altro che aprire e staccare tu, perché io ho a staccare tutta quella roba lì, per carità, e poi a rifilarcela, ciao, buonanotte. Già mi arrangio io, non ti preoccupare. Poi ne ho uno, mia riparazione. Ho ordinato i LED, e già smontato, l'ho ripiazzato. Non tenere in giro il pannello LCD se poi lo danneggio, mi arrivano domani, va bene, dai, avanti Marco, ci saluti, Marco non ne ha voglia, avanti a tu. Sono in cucina, dai, un saluto a tutti. Sempre in cucina, se sei in bagno, cagando, sei in cucina, mangiando, è vero. Cagando sei almeno, sì. Ma Marco, ma tu una Fiat Punto c'hai? Negativo. Marco c'ha un Porsche Carrera, grigio. Magari. Ho una Lamborghini Miura, con una Elettra Lamborghini seduta dentro. Ciao, una macchina Miura. Magari ce l'hai tutta dentro la macchina. Ma perché vedo sempre questo con la Fiat Punto grigia con l'antenna sopra la capota? Oh, che tovo, c'ho una 6-7 poligonale, bella, che tovo. Non so chi possa essere, Anto. Magari un radioattore, che antenna esce, bioradioattoriale. Sembrava CB, sembrava. Oh, non ho idee. Qualcuno lo trovi in baramobile adesso. Oia. Sono rientrato da fuori, io sentivo questo rumore assordante, il baracchino era con volume alto ed era Pomponio con la portante premuta che mi copriva quasi la modulazione, la ventola, e ci ho detto è una cosa allucinante. Lo so. E si sente anche aspetta. E poi ho sentito Luca che stava cercando di regolare, che apparato Luca? No, il Typhoon, non mi sale lo smitter, prima mi saliva bene a 9, 9, 10 così, adesso mi sale a 5, non so se li ha preso, vabbè, lo lascio così, non ha fatto un cazzo, ah, interessante che mi sentite, poi il resto non mi interessa, non li smitter, manco ne guardo. Ma in trasmissione te lo fa, quando trasmetti, e che scheda hai il Typhoon? Cos'è, PT3006? Non so che scheda è, proprio che scheda ha il Typhoon, del Saturn Echo? 2009. Però 2009 è il modello vecchio modello però. È modello vecchio, è preciso, è uguale. No, perché nel mio se la trasmissione, la potenza di trasmissione è il VR8. Se c'hai ancora quello schemino che ti avevo dato del 3009, se è uguale è quello lì. Cioè quando trasmetti quanto sale lo smitter, capito? No, il 3009 è a posto, cioè, il 3009 è perfetto. Io non devo toccare niente, quello così era. Mi calcoli, ho toccato LC, l'ho mettato di coso in trasmissione, la modulazione. Il resto, e poi vabbè, ho spostato il jump, vabbè, i canali. L'altro è tutto originale. Sì, però c'è fortuna che lo schema è quello. Ti ricordi quello schema giallino che ti mandavo ogni tanto? Magari è uguale, Antonè. Sì, penso di sì. Allora, quello della M è quello di ricezione. Poi l'altro è, adesso non mi ricordo, vabbè, comunque già ho capito la posizione. Quello è di trasmissione, e poi vabbè, per quanto riguarda la LC, LC AMC, capito? Va bene, io vi saluto e sono, sto facendo il caffè in cucina per me e per mamma. Ciao Antonio, riprendi. Oh Marco, guarda che mi stai ascoltando, sì. Benissimo, benissimo, fortissimo anche di radio. Ok, va bene, avanti pompo. Poi ragazzi Antonio, ci sarà subito Antonio. Ma tu? No, già sono qua già. A me mi pare che compia di più il però. Nel 2009? Sicuramente anche per me. Vabbè, questo è, diciamo, manetta, è tutta manetta. Invece l'altro no. Non mi sbaglio, ti sentivo un po' forte anche su, ti sentivo. Sei stato a Manzano, mettevo tenti in dire una cosa. L'attacco. Va bene, dai, ma mi pigiamo, mi pigiamo, anche se, vabbè, non c'è bisogno, ma poi durante la notte si fa freddo. La mattina ti faccio sentire una cosa se ci sei. Dura, No, cosa dura. Devo sentire io la modulazione. Ma quella dai a Marco, non a me. Ma cosa? Ah, modulazione, ma ci sentiamo una cosa, mi hai detto, va bene. Tanto domani già c'ho la vista più tardi, dai, tranquillo. Tanto io entro presto perché poi alle 8 devo uscire a caricare la macchina. Devo sentire un po', ho fatto delle modifiche, Allora sì che ho un apparecchio. Questa è la sua Gubin Sandy, ti sto pensando, Bubu, se non devi fare niente, ci vieni con me a Itia, qui in compagnia, sabato. E poi al ritorno facciamo qualche bacio, beviamo qualche birretta. Sicuramente si è spostato. Tu sei travagliente, la tua sera si è svenuto tu. Purtroppo sto lavorando, non posso. È un casino. Sono volentieri, lui. Dimmi tutto. Stavo dicendo, Bubu. Non so se sono le 10:30, se sei sveglio o sei dormito. Stavo pensando se gira, venivi con me, fammi compagnia a Iti, che devo fare una visita. Io non so dove è in ospedale di Iti, sono andato un paio di volte. Vabbè, come vuoi tu, non c'è problema. E poi rientro magari, c'è il basto casa tua, c'è sempre. Sì, voi a Bacca, sono due. C'è la Cuvetti e poi c'è Andrea. Andrea si è allargato, già lo sai, si è pigliato tre pezzi. Sembra diventato un ristorante pizzeria adesso. La mia birra è chiusa, sì, bottiglie grandi. La birra è chiusa, c'è la Cuvetti, bisogna andare al fornitore allora. Solo lì ce l'hanno. Andiamo lì, perché Andrea c'ha solo 33. Stavate per la 2,50, usi? Tre qualche cosa viene la cosa. Andrea, 3,50 c'è anche la... in chiusa non ce l'ha, però c'è la Heineken, Sonia, la pasticceria, che me l'ho dimenticato. Vabbè, comunque costa 3 euro alla corrente in chiusa. No, mi piace l'Heineken, per carità. Prendo una bronza 20 anni fa, a me, 20 anni fa, non ho più un cazzo, no, mi faccio la birra, pucci. Sì, vabbè, già ci beviamo l'inchinosa la cosa, allora, non c'è problema per quello. La prendiamo dal rifornitore. Via. Va bene, io ti chiamo. Tanto partiamo verso le 10:30. Sono 20 km circa, 21 km, boh. E devo fare un attacco, mi serve urgente, perché poi martedì devo risalire lì, la devo chiamare lì al Conti e portarla alla dottoressa. Sì, vabbè, non c'è problema. Perché l'ha giocato lui io la notte. Mi sono fatto mettere anche il collare, mi sono fatto. che mi sono fatto anche il video, solo che poi me lo sono lasciato nel telefonino di Giuseppe. Però me l'ho fatto tutto, cazzo. Sono entrato subito, sono entrato. Altro che aspettare a casa a fare gli esami dopo 6 mesi, ma come dico io, si entra subito da pronto soccorso a farsi gli esami uno. Però ve li hai itti? No, direttamente da pronto soccorso sono andato, nelle parti sono andato, mi hanno fatto un attacco, hai capito? Mi sono sbattuto nel bagno, c'è lo specchio in legno che sforge. Come mi sono sollevato, mi stavo facendo il bidello, l'ho preso in pieno nel sopracciglio, mi ha aperto, hai capito? E Simona mi ha chiamato l'ambulanza. Mi hanno fatto tutto l'attacco, il trauma cranico, e tutto è arrivato. Ha detto guardi che io soffro di questo problema che ho alla cervicale. Mi hanno fatto anche quello, mi hanno fatto una flebo dalle 3 del mattino, sono uscito fuori alle 7 e mezzo del mattino. Oh, ti sei separato. Quello è successo pure a me, ma perché io l'ho controllata. Cazzo, quella l'hanno controllata anche a babbo un giorno, è andato lì al coso, ha trovato la torsa, era piena estate con queste tette fuori. Diceva subito, entra dentro, c'era la dottoressa. Dopo un po' ho visto uscire veloce, ha detto cosa strano, è entrato un medico. Cazzo, gli ha detto, si è obiettato, ha la sua età, 84 anni, ha detto ancora, ha detto. E gli ha detto, si mette all'asilo lì, anche lei. Cazzo, se ne è fuggita, perché cazzo, gli stava toccando le palle, no? Cioè, si è obiettato, lascia vedere un po', toccando, si è pigliato, si è sollevato, Il cazzarò è fuggito che era imbarriato. Io non vedo. No, era buona però, la verità, quella, tutta scollata, si vedevano tutte le tette fuori, bionda, occhi azzurri, ma era guarda, veramente una bella donna. Lei è uscita veloce fuori, è entrato il posto di dietro, il dottore è entrato. E quando sono usciti fuori tutti e due, gli ha detto, il dottore, cazzo si è obiettato, lo sa che lei all'età che c'ha, caspita, dice, se li funziona ancora. Se ne fuggi dalla dottoressa. E mi sono detto una visita simile io. Sono portato vicino... In urologia, sì, in urologia l'ha portato, sì. Lì alla stecca bianca. È urologo. Quanti anni avevo quando è morto tuo padre? È morto un secolo di anni. Io abitavo ancora con subito di Emanuele, figurati. E stavo lavorando ancora da Osai. Sarà intorno ai 90 qualche cosa, non mi ricordo adesso. La verità, non mi lamento. Che controllo il certificato di morte, cazzo, quando è che è morto. Ma lui era ancora vivo quando è andato di là e ci erano passati di stare male, che di avere due comuni, sono passati mi sembra 4 anni. Oggi era di sera, domani dovrebbe essere di mattina. Devo fare prendere l'appuntamento per la visita dermatologica, poi per la questione dei dolori che ho alle gambe, ai muscoli eccetera eccetera, e poi devo fare anche la domanda per i trauma cranici che ho avuto. Avanti Anto. Grappa, vai. Che io purtroppo sono impegnato, se no già mi ero venuto a farti compagnia. Capo, ma già a me si svaga Antonello, va. Capo, vai. A me mi svago sì, cazzo, poi dico forte, quando sono a casa qua sono diventato rincoglionito. Sai guidare la macchina, faccio guidare se vuoi. No, non ti preoccupare, la macchina ce l'ha Giovanna, ce l'ha l'Apollo, ce l'ha su guidare, la garage, quella che c'avevo di babbo, la toglievo fuori, ce la mettevo un nuovo dentro da solo. quindi e tu immagini te un disterzo che c'aveva, ragazzi. Ma mi sembrava che fosse chiave girando uno di quei pullman modello vecchio. Ma che macchina era? La macchina, ma la carità, no? Ci vuole la patente, quello sì, ma quella gente che non ha patente guidava a tessi. No, stavo dicendo, che macchina era? La Polo c'avevo io, il primo modello, capito? Senza servosterzo era. Ah, con tuo padre. Con il mio padre, la blu. Poi aveva comprato la grigia che era andato mio fratello a prenderla giù a Olbia. E ci aveva beccato anche la multa, non so, gli hanno fatto la fotografia quando è tornato. Ma era buon prendere, ma c'era la patente tuo fratello. C'era la patente, adesso non ne ha più. Non sarei matto che gli do la macchina, no? Così c'è c'è cosa, c'è c'è cremone. Vabbè, ma non è più in grado. Sì. Già vuole guidare, perché un giorno mi ha messo lì, dice, fammi scendere giù in carrozzina, mi metti alla guida, c'è la guida della macchina, io gli ho detto, ma tu sei tutto scemo, sì. Ma guarda che c'è la macchina, ci sono le macchine fatte per loro, deve fare un po' di pratica. Quelli che sono senza sedia a rotelle come fanno a guidare? Logicamente se uno ha la testa a posto pure, capito? Quei comandi a chi da maniera che non c'è problema, però uno deve avere quel gabbo a posto. Appunto, ma siccome Giampino la testa a posto non ce l'ha. Eh sì, perché i disabili come fanno, quelli che non possono camminare? Hanno tutti i comandi sopra, hanno. Sì, vabbè, ma lui non c'ha proprio la testa, capito? Se mi aveva avuto la testa, aveva avuto problemi di gambe, tanto per dire. Ho trovato anche quella nella macchina, hai capito? E invece testa non dà, cosa devo fare? Non ce lo mette quella nella macchina, no? E lui si cura anche il luogo. Sì, lo ammazza qualcuno. Ma perché sta sempre bevendo? E ogni tanto, qualche birra già se la beve, però il fegato ce l'ha a posto. Capito? Intanto si fuma anche qualche sigaretta, non sempre, ma se la fuma. Sta fumando i zigarelli, ce ne presenti quelli a 2,50 euro. Quelli sta fumando adesso, cazzo ne puzza, sono fini sembrano i sigari dei frusci, cazzo. Che sta fumando, ciao Simone. Ciao Piero. Vabbè, dopo mi fa, tanto ormai non l'ha fatto, cosa fa, non gli può bucare la sigaretta. Oh, yeah. Cosa fa, la TV si guarda. No, già è tranquillo, già va un tubo, c'è proprio la pelle alla bambina, cioè non c'ha niente, proprio niente, non c'è un tubo, l'unica cosa che c'è è il cervello e basta. Ma che cosa che c'è è il cervello? Non gli funziona tanto bene ogni tanto. No, ma c'è la carrozzella? Ogni tanto lo siedo lì nella sedia carrozzina, come lo chiamare carrozzella. Vanno ad andare dal bar, poi si beve la birra, poi si fuma le sigarette e poi si torna a casa e si piglia un paio di birre dallo spì e eccetera eccetera. Però mi tocca scendercelo io, tanto gli appesa a poco. A meno che non vogliamo agganciare la macchina tua, la portiamo un giorno lì alla Teloce, fargli fare un giro, alla bettellina. Ah, tuo fratello. Via, e poi lo molliamo, cazzo. Poveraccio, pure da di vivimmi. Io lo so, a me si fa un giro. Ui, cosa vuoi fare? Cazzo, già l'ho portato un giro da... Sono partito dallo spì, in salita, fino a casa. Cazzo, al momento non mi scende un accidente, cazzo. Cosa vuoi fare? Purtroppo non è più in grado di... Se no già... Ma cosa gli è successo in poche parole? Ah, gli è successo una specie di ictus in pratica. C'ha problemi alle mani, capito? Le gambe c'ha... Già fa forza ogni tanto, però c'ha problemi alle mani. E allora? C'ha una mano aperta, l'altra c'è la semichiusa. Ok, rovinato. Allora, il cervello già l'ha ripreso, già è a posto. Basta fargli la cura come ho fatto io. Gli mettevo il CD, mano a mano che... Allora cominciava a ricordare, eccetera, eccetera, e tutti i medicini venivano dato in quella specie di centro dove ci avevamo messo, cazzo, non era un centro, quello era un coso, un lager. Vabbè, guardate che si sia ripreso, adesso va. Chissà chi fa il karaoke, la sua assistente, mi pare. Esatto, sì, bravo. Lui è il capitano. Ma comunque sento molte cose negative di quella persona. Sì, l'ho sentito anch'io, ho sentito che hanno con lei ce l'hanno. Quando c'è lei se ne vanno quasi tutti. Ma si vede una gaimata però. Troppe cose fuori scomposto. Cioè che non vanno bene, ho sentito. Con quella persona lì. Sì, io lo so, ma che padrone che sta stando il cervello, lo cazzo. Si è ubriacato l'altra volta. È successo un affarattorio in Kibi, ha isolato tutto. Cazzo. Ma ancora c'è il raddo, No, penso che sia aperto adesso. Ma per colpa sua e per colpa di Marco. Sì, se l'ha fuso, se aveva avuto due bottiglie di spumante la mattina senza mangiare. E l'ha fuso la sera. E si è portato a rompere il cazzo. No, io non ci sono andato più perché troppo stranezza c'era, troppo cosa che non mi piaceva. Sì, un po' di mania ci si sono, perché altro là. Vedere chiaro. Ma non ne so, io di mariachi non ne so. Però c'è un ambiente che non mi piaceva, mi dispiace, però non mi siamo curati di più. Hai fatto bene, neanche ci sono più andato, verità. Ma guarda, vado in via Cazzaredda e sto bene. Non mi ero fatto le balle, sono tranquillo adesso. Se so che fanno il karaoke vado anche da Mirko, in via Farina. Perché a me mi piace un karaoke, capito? Oppure qualche giorno ci passerò, sono sicuro che non mi rompe le balle nessuno, neanche lì. In via Cazzaredda cosa c'è? Ragazzi, da c'è il circolo di coro di gli amici, io vado lì. Ho capito. Ma dov'è? Io non ci sono mai andato, vedi, non so come si è fatto, se un circolo tranquillo o... No, non vi neanche io, non vi balle, non lo posso assicurare. O vai tre fuori. Meglio così, no, io vado... Peccato, la dico spesso, vedi, i rompiballe non ce ne vanno perché lui è prima a farsi di volo, non viene una rompe di coglione, ma io comincio a fare una cosa, se calavviatti, come sei venuto, sei entrato, ti innanzi, gli ha detto, paga te ne vai. Dove è Nico? In via Torino, basta che passi da via 4 novembre, tieni via Torino, e c'è il circolo lì. Ah, sì. E stai tranquillo che non entra la gente strana lì. Perché lui è primo ad alzarsi dietro al balcone. E mi dava la bacchina, io fuori. Ma fuori, qui ci vuole la testa, ci vuole il coso. Fuori dalle balle lì, cioè non ne fate nulla. Non è primo che prende il volo da lì. Comunque piglia calcio in culo lui. Però molte volte ci sono delle situazioni che vorrebbe la cura i bigliù puro, non ti va sempre bene in certe situazioni. Sì, vabbè, ma se lui sei uno che rompe le balle a un cliente, a un certo punto esce lui, hai capito? E sua paura. Da voi? Sì, vabbè. bene agire così, perché io ce la mia tutti pure adulti con le rompiballe. Però molte volte nella mischia ci sono quelli che non vorrò mai fare. Che eleganti i proprietari nei suicidi con le sarrotte. C'è quello che glielo puoi fare e quello che no, non puoi fare lo prepotente. Purtroppo è così. Sì, già lo so, ma da dico a me la madre di gente del genere già non entra. Pochi ma buoni mi so. Ma è raccontato che tutti gli agussi e cosa, ci ha fatto lo sogno, racconto che sta giusta di un mio santo. Qualche anno fa è successo. Ma l'ha picchiato, mi era un duro lo stesso, a prima della cultura voce. Volte è capitato, come dice Aghito. Era embriaco che ci ha preso, l'ha picchiato, deve essere che... Dite che codia, non riuscivano a fermarlo da qua, da come lo picchiava. Dite, da gusti forti, l'ha preso, perché stava facendo lo stronzo lui, però purtroppo li si ghiaccio codia forti, lì si è rivoltato contro. Cioè, come lui l'ha andato a prendere un collarino che sta pigliato, ha cominciato a codirli tanti di chi si gazzotti di un mio santo, sai come l'ha fatto? Sì, e poi anche per tornato. Purtroppo tante volte è così, ma tante volte devi stare attento. Devi stare attento perché non so mai chi trovi nel tuo cammino. Non lo sappiamo mai, purtroppo. Ehi, quanti buttafuori sono stati picchiati, già lo sai anche tu. Dai buttafuori sono stati buttati dentro. Sì, sì. Perché poi, quando sono imbriachi, io sono di una persona, di un buttafuori, che chi ce l'ha massacrato. Gli ho spezzato anche il braccio. Cioè, e chi se non so cosa ha fatto tutto pazzia, però... quello là era una macchinetta picchiando, no? Non vedeva neanche i colpi, non vedeva dove cavolo gli arrivavano. E hanno provato a fermarlo altri colleghi, grazie a Nebigliato Buruchici. Cioè una macchinetta, dice questo cristiano, non si riusciva a fermarlo. Ma che carabinieri l'hanno fermato? A manca del latte, la testa. Ehi, se non li butti la bisciola, la muroletta nei bigliani, non ti preoccupare. Sì, ma con quello che c'è adesso deve essere calma, non ti preoccupare. Se c'è un coso, un peso, vedrai che la scossa elettrica avesse si sta tuffizza. Sì, è vero. Però non bisogna mai fidarsi, perché magari ci ha pigliato un bevuto, che cose forse, e tu già andai di fa, io, magari Moroghi se lo vade, cioè usa anche le cose che non devi usare, grazie figli in colpi, un bel figli, cioè molte volte no, non sai mai chi c'è davanti me, mica una volta ho visto una scena, io c'ho una mezza bugnetta, cazzo si alzava ogni affare di vita faccia, Ghiccio. Lui non riusciva a fermarlo, mi. Sì, vuol dire che era... che ha fatto qualche posto di scuola, in qualche posto, cosa ne so. Antone, bisogna stare attenti con chi ti metti davanti, mi, un po' di volte. Non va sempre bene. Ragazzi, i poliziotti ti lasciano il coso, quindi già te ne vale subito, non ti preoccupare, che bisogna con i puntali della pistola a distanza di un metro e mezzo, adesso se ne vale. Dai, se già un po' riesce a farlo in gamma, certi personaggi. Perché molti sono anche duri da picchiare, me. Cioè. Allora mi pare che sia morto, chi su Massimo la bisciotta, l'ha mai inteso tu. Quello una volta l'hanno picchiato, non riuscivano a pusarlo, ma pare di me da faccia, non si pusava questo cristiano, gatto di Bastia, Roma Zorra. Cioè, ma aveva una voce allucinante. poi film, ci sono in TV. E Luca è fino a fatto sparito. Luca, beh signori dai, signori belli, mi sa che è giunta l'ora. Come ti andava in il sonno? Dai, buonanotte a tutti, buonanotte, ce la risentiamo domani. Ehia, ciao Anto, ci sentiamo domani. Beh, magari domani ce la sentiamo anche da fazione 2, se sono. Devo uscire a cercare questa resistenza domani. Prima di attaccare la lampada a chilo mio, portala come si chiama, perché la forse legge se... Beh, se leggono solamente due, ne manca una, ne manca questa resistenza, boh. Non si capisce quanto sia il valore. Mi manca un pezzo, quindi adesso domani mi tocca vedere un po' cosa diavolo ci manca. Vediamo, usiamo la giornamento, questo stato necole a posto. Ok, al limite se capita ci sentiamo in stazione 2, dai. Non c'è problema. Gli ho fatto anche delle modifiche, mi sentirei a bomba. Sì, vabbè, tanto devo fare anche la modifica del coso io. Alla tua malacchina, quello che c'ho nel Connect 4000 giù. Lo faccio la stessa identica modifica che ho fatto a Saturn Echo, li metto lo stesso potenziometro e così mi regolo l'eco come si deve. Ok, da. Ok Antone, io ti lascio e buona nanna, ciao ciao, buonanotte. Via, ciao ciao, a domani, buonanotte. Ciao, ciao Luca, ciao ciao, ci siamo, buonanotte. Sono al telefono, senza